Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Il bilancio di un sabato sportivo trasformato in un giorno di cronaca da dimenticare è pesantissimo. 3 feriti, di cui uno grave. Ciro Esposito, 30 anni, tifoso del Napoli. È stato raggiunto da colpi di arma da fuoco esplosi nella zona di Tor di Quinto, a 2 passi dallo stadio olimpico. Trasportato all'ospedale San Pietro, è stato operato per estrarre un proiettile che lo ha raggiunto alla colonna vertebrale. Un ultra della Roma è stato interrogato e sottoposto a provvedimento restrittivo. C'è da dire. In Italia succede così. Le regole, ma al contrario, il fischio d'inizio di Fiorentina-Napoli non lo dà un arbitro, un fischietto dell'AIA, ma un capo ultra. La leadership di Gennaro De Tommaso, detto Genia Carogna, nella curva del San Paolo di Napoli, è da tempo indiscussa. Non ha il fischietto al collo, ma indossa una maglietta nera con la scritta Speziale Libero. Speziale è l'ultra del Catania, che sta scontando 8 anni per l'omicidio dell'ispettore di polizia Filippo Raciti. Avvenuto nel 2007 durante gli scontri fuori dallo stadio. È quest'uomo, seduto cavalcioni sulle grate divisorie della curva. Finalmente posso dire io c'ero, anche se naturalmente non ero lì per vedere la partita, stavo tornando a casa. Improvvisamente una parte di Roma Nord è stata bloccata. Ero in macchina con mio figlio, sirene, ambulanze, macchine ferme, vigili ovunque, polizia. Guardavo le agenzie sul tablet e capivo cosa stava succedendo, facevo le telefonate ai colleghi, mi raccontavano. Sai, c'è stata una sparatoria a Tor di Quinto, hanno sparato dei tifosi, ma chi? Ma dei tifosi romanisti hanno sparato ad altri tifosi. C'è gente per terra, sta arrivando la polizia, e sentivo gracchiare sotto, dalle redazioni dei giornali, le radio della polizia che davano gli ordini, quanti tifosi ci sono, liberate la strada e via dicendo. Insomma, l'ho vissuta in diretta. Poi mi sono reso conto di quello che è accaduto, poi leggo i giornali, e poi da persona totalmente digiuna, ma per un proprio limite, non per un atto di fiero snobismo, da ogni passione, da ogni pratica, da ogni cognizione rispetto al gioco del calcio, mi faccio ancora di più incarnando e prendendomi l'onere di rappresentare tutti quelli come me che del calcio non gliene importa nulla. Ma sembra possibile che sia messa a ferro e fuoco una città, e questo è già abbastanza normale, avviene spesso abitando nella zona antistante allo stadio olimpico. Sta nel gioco che quando ci sono le partite tutto viene bloccato, fermato, non esiste più regola, non esiste parcheggio, non esiste nulla, il calcio monopolizza tutto. Vabbè, è il debito che paghiamo per il fatto che non condividiamo quella che è la passione nazionale. Poi oggi leggo i giornali e comincio ad andare più nella storia. 75 paesi collegati alla diretta, la tribuna dell'autorità impotente, di fronte ai fischi dell'inno di Mameli, dice il Fatto Quotidiano, il prefetto insiste, niente trattativa. Però in realtà la trattativa c'è stata. E chi è l'eroe? L'eroe di questi giorni è il capo degli ultra del Napoli, Gennaro Carogna, con le mani, le braccia tatuate, con la maglietta che sembra uno sberleffo nei confronti dell'autorità. Liberate un assassino di un poliziotto, semplicemente fa parte dei nostri, il rappresentante estremo di quello che è un potere trasversale a cui tutti, comunque, nessuno escluso, sono soggetti. Sì, perché è facile poi alla fine concentrare tutto l'odio, tutto il disprezzo, il simbolo e l'atomo opaco del male sia proprio l'ultra Carogna, con quel gesto imperioso a braccia aperte. Ne ho visti gesti simili, che dà improvvisamente il via, e in tribuna c'hanno tutti, il presidente del consiglio, politici, tutta la banda delle persone che segue sempre il carrozzone della politica che va allo stadio. È sempre successo, l'ho visti passare da anni con le auto blu nell'ultimo momento, con le sirene spiegate. Dicevo, vedi, questo è Rutelli che va alla partita, è Veltroni che va alla partita, è Alemanno che va alla partita. Era sempre, cambiava il sindaco, ma era sempre la stessa storia. Partiva il corteo all'ultimo momento, era tutto pronto. Beh, però questa volta c'è qualcosa in più. Siamo sicuri che soltanto l'unico vero responsabile negativo, questo signore che è stato improvvisamente, oggi sarà l'eroe del suo quartiere, della sua città, l'eroe del mondo degli ultra. In realtà è un meccanismo un po' singolare, un po' strano, un po' difficile da sondare. È una nostra caratteristica nazionale, una peculiarità che abbiamo soltanto noi, o in realtà in tutto il mondo, ove ci sia uno sport nazionale così forte, in realtà è la teppaglia che comanda. Non esiste organizzazione, non esiste istituzione distruzione, non esiste senno, non esiste senso, ma è la Teppaglia comunque che fa da padrone. Come la pensate? 800240024. Vedere giocatori costretti a togliersi le magliette per imposizione da parte di un gruppo, ripeto, ridotto di tifosi è davvero incredibile. Due partite a porte chiuse e 15 DASPO. Sembra una barzelletta, invece sono soltanto questi i provvedimenti finora presi dopo la delirante domenica di Marassi. Intanto ieri Abete ha detto che il calcio non può subire ricatti del genere. Le solite parole, vedremo se davvero qualcosa accadrà. Preziosi domenica aveva chiaramente parlato di galera per i responsabili. Ieri sera è... No, mi fa piacere, distingo, mi scrive già subito un ascoltatore via SMS. Si legga le ultime notizie, ANSA, e da giornalista dia un'informazione corretta riguardo ai fatti del sabato. Sì, perché ci sono colpevoli e innocenti. Ciro Esposito ha aggredito il De Santis, che ha sparato per eccesso di legittima difesa. Certo, uno che va alla partita con la pistola in tasca, naturalmente, è un agnellino, è un signore che naturalmente, subito, capito, ci dividiamo subito a metà. Io dico, sono tutti colpevoli, io sono colpevole. Io che non ho mai guardato una partita di calcio in vita mia, mi prendo la mia parte di colpa. Ma non facciamo i distinguo. Dottor Nicola Ferrigni, buongiorno. Buongiorno. Allora, Nicola Ferrigni è un sociologo, un ricercatore sociale, consulente dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Ha scritto assieme a Roberto Massucci un libro, C'era una volta l'Ultra, Eurilink, edizioni 2013, quindi un libro molto recente. Guardi, oggi io sono sorpreso, ma le ripeto, non è che voglio fare l'ingenuo per darmi un'allure da intellettuale che non guarda le partite. Oggi i più raffinati intellettuali discettano di calcio in televisione. No, io semplicemente vedo Repubblica che elenca una serie di facce che per me sono totalmente sconosciute, che sono i padroni degli stadi d'Italia: Spampinato, Diabolic, Piccinelli, Sandokan, Caravita, Fileni, Rosci, Il Boccia, Grancini. Sono i capi delle tifoserie ultra, delle partite più virulente, delle squadre più virulente d'Italia. Lei qual è il suo punto di vista? Il punto di vista che si è fatto innanzitutto sui fatti di sabato, visto che mi dicono di fare distinguo fra innocenti e colpevoli. Per me nessuno è innocente. Sbaglio? Sì, guardi, intanto ci accomuna la non passione per il calcio, perché anch'io abito in zona antistante lo stadio e anch'io non vado allo stadio se non per motivi di osservazione e di studio, ma non so. Poi lei scrive libri sul calcio non essendo appassionato di calcio, è interessante. E questo mi permette di essere super partes. Infatti, ma questa ha ragione, libro, però sì. Sì, il libro che lei ha citato, C'era una volta l'Ultra, è proprio una ricerca che abbiamo realizzato con l'osservatorio e quindi con il dottor Massucci, intervistando oltre 2500 tifosi, un campione quindi ampiamente rappresentativo, che ha permesso di ricostruire il cambiamento che si è verificato nel corso degli anni. Il titolo C'è una volta l'Ultra e quindi è semplificativo. Poveri, mi scusi se la interrompo, continua il flusso perché le voglio dare a tempo reale quello che è il polso della situazione del paese. Ma perché non parlate di quello stronzo che ha sparato i napoletani e me ne ha quasi ammazzato uno, Domenico da Salerno? Ma non si può un attimo astrarsi? Vero, lecito, è giusto che sia naturalmente Jenny l'unico grande protagonista negativo della storia, mi sembra superficiale pensarlo, ma che ancora una volta prevalga lo spirito di corporazione, di parte, di appartenenza. Siamo un popolo che non ce ne importa assolutamente nulla. Facciamo le pernacchie quando sono l'inno nazionale, con la bandiera ci cuciamo le mutande, cose del genere, però di fronte al calcio improvvisamente diventa viscerale. Un pezzo della nostra carne, se soltanto uno osa mettere in dubbio la cristallina e adamantina ragione della squadra di appartenenza. Guardi, io credo che in questi casi il continuare, come giustamente anche lei sottolinea, a schierarsi da una parte o dall'altra, quindi a favore di Ciro Esposito o meno, non facciamo altro che reiterare quello che è un po' lo scontro anche tra, ma non li chiamerei neanche tifosi, qui parliamo di delinquenti, cioè quello che sabato è accaduto ha poco a che fare secondo me con il tifo calcistico, nel senso che questi aspetti che vengono molto spesso sottolineati anche dalla stampa e dalla comunicazione, in cui si descrivono questi eventi colpevolizzando chi ha la pistola o meno, hanno poco a che fare con il calcio. Cioè, sì, però mi permette, dottore, io mi sono anche un po' stancato di quelli che dicono io il calcio pulito, ma dov'è il calcio pulito? Cioè, mi faccia capire, forse è una mia posizione estrema la mia, non lo so, però non ci dimentichiamo che ogni ogni domenica si disputano centinaia di partite con migliaia anche di tifosi, come dire, quindi facciamo anche le debite proporzioni. Quello che è accaduto a poche ore dall'inizio della partita a Tor di Quinto, quindi anche una zona, come dire, non dentro lo stadio, ha poco a che fare secondo me con il calcio. Qui parliamo di una società che oramai è violenta, cioè sommiamo questi elementi, vediamo delle persone che si scontrano con pistole, quindi ecco anche il questore Massa è intervenuto dicendo che si è trattato comunque di un pazzo, di un evento forse non prevedibile, perché chi pensava che i tifosi possano andare allo stadio armati di pistola? Cioè questo è incredibile, si possono ipotizzare tifosi con violenti, con bombe carta purtroppo, ma ecco arrivare a questi gesti estremi di pistole, di armi, ha poco a che fare. E Bobby, scusi, l'escalation ci fu qualcosa del genere ai tempi della politica estrema in Italia, si cominciò con le scazzottate, si passò alle bastonate, si andò alle bombe carta, poi qualcuno cominciò a tirare fuori le pistole. Violenza chiama violenza, è quasi un dato insopprimibile, fisiologico, che ci sia un'escalation se si continua a dar adito alla violenza. Infatti il calcio, quando parliamo di calcio, quando parliamo di tifo, non possiamo non considerare il calcio nella sua interezza di fatto sociale, cioè di fenomeno sociale. Quando guardiamo lo stadio, se lo stadio riassume, pensiamoci, nelle sue 30-40 mila persone che lo rappresentano, tutti gli aspetti di un paese, che possono essere aspetti culturali, sociali, di interazione, di economia, di benessere, tutto insieme, quindi come non interpretare lo stadio come un fatto sociale nella sua interezza? Ed ecco quello che sabato è accaduto, che si ricollega, pensiamoci anche a quello che è ormai il comportamento dei cittadini allo stadio e non, agli ultimi scontri anche del 12 aprile, manifestazioni a Roma, violentissime anche in quel caso contro le istituzioni. Ecco, quindi non possiamo soltanto ridurre questa interpretazione al discorso di tifo e di ultra, altrimenti non usciamo più. Anche perché mi scusi, sì. Dottor Ferrigni, visto che molti insistono sulla topografia dell'evento, l'episodio è avvenuto al di fuori della partita, allora Tor di Quinto è lo stadio olimpico, perché l'area occupata da una partita di così importante rilevanza, una finale mi sembra di Coppa Italia, scusate se dirò una bestialità, capito? Occupa un'area vastissima. Gli autobus dei tifosi erano parcheggiati davanti alla RAI a Viale Mazzini 17, cos'è? 14, scusate, Viale Mazzini 14. Quindi è vastissimo lo spazio occupato. È anche folle che una città venga massicciamente occupata dalle truppe d'assalto quando c'è una partita. Ma non si può fare, dico una banalità, un regolamento in cui gli stadi devono essere in zone isolate. Io vedrei uno stadio in mezzo a una landa desolata, circondata comunque da forze di sicurezza, con i tifosi tutti lì ben organizzati e con i droni che girano sopra e controllano la zona, no? Che in un'area altamente urbanizzata, dove ci sono giardinetti, bambini, anziani, gente per strada, un sabato pomeriggio in cui c'è tutta la popolazione per strada, succede la guerra civile. Sentiamo Salvo, buongiorno. Sì, salve dottore, buongiorno, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Ma io l'unica cosa volevo dire, seguo un po' il calcio a 360 gradi, anche i campionati esteri. In Inghilterra questo problema sulla presa l'hanno risolto, perché lei non vede mai sparare una bomba carta, non vede mai interrompere a male gli ultra le partite o a farle ritardare, solo perché comunque io credo che ci sia stata la reale volontà di volerli risolvere. Quindi lei dice manca la volontà politica di risolvere. Sì, adesso poi figuriamoci, accade sotto elezioni, su questo tutti prenderanno l'occasione per attaccarsi il loro distintivo di corretti operatori delle istituzioni nei confronti di un fenomeno sociale che non si può più tollerare. Vedremo che succede, ma fra un istante, dopo il traffico. Melog, cronache meridiane. Quello che vedete è lo stadio semideserto, soltanto sotto la curva sud c'è ancora gente che sta uscendo. Che cosa è accaduto dopo la fine del primo tempo. Le squadre non sono tornate a giocare. Ci sono state delle voci, si è parlato di un ragazzo morto nella curva, sotto la curva sud. Peraltro noi siamo usciti immediatamente dopo la non ripresa della partita e c'erano molte macchine incendiate, si levavano delle fiammate di fuoco. Allora l'importante è farti buttare un accendino quando entri, fa niente se poi hai un Kalashnikov sotto l'ascella. Gastone era stato già prescritto aver fatto saltare un derby per la storia falsa del bambino investito dalla polizia, la volta che intervenne il capitano Totti che bloccò la partita improvvisamente per una bufala che era stato ammazzato un bambino alla polizia. Siete sempre alla ricerca del mostro, Semprigionale meglio, ma io non sto ricercando il mostro, come vedete sto cercando nel mio piccolo, nella mia limitatezza, di portare un principio di equità e di riflessione. Non me ne importa nulla a me del tifoso meridionale, settentrionale o centrale. Gianluca, se non riusciamo a far mettere il casco a un ragazzino di 14 anni, allora sentiamo Claudia. Buongiorno Claudia. Sì, buongiorno. Siamo di nuovo qui a parlare delle stesse cose da quanti anni, il che dimostra che è un'enorme ipocrisia. Lo stadio serve come valvola di sfogo per convogliare l'aggressività sociale in un rito collettivo che è quello dei tifosi, delle tifoserie, e che costa noi cittadini, a me del calcio personalmente non interessa nulla, in termini anche di polizia, di forze dell'ordine. Se non ci fosse questa enorme ipocrisia, perché il Ministero degli Interni schiererebbe intere squadre di poliziotti, bloccherebbe le città? Una roba così non si è mai vista. Io vorrei sapere quanto ci costa a noi cittadini questa specie di rito, guardi, romano? Non lo so, i romani forse facevano esattamente... Cioè, lei riassume... il benpensantismo tipico, ma che condivido anch'io, perché io ho provato la stessa sensazione, stavo bloccato in mezzo al traffico coi colleghi che mi chiamavano, mia moglie preoccupata che mi chiamava dal suo giornale, che sentiva la radio che stava succedendo, cioè porta i figli a casa, dico ma scusate, ma questo per cosa? Che me ne importa a me? Perché devo star qui fermo tre quarti d'ora dentro la macchina, vedere Piazza Mazzini a ferro e fuoco per una banda di teppisti che hanno deciso che quel giorno avrebbero loro fatto da padroni. Abbiamo al telefono, ricordo, Nicola Ferrini, che è un sociologo, consulente dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, ha scritto un libro insieme a Roberto Massucci, C'era una volta l'ultra. Allora, vediamo, Nicola Ferrini, se riusciamo a capire esattamente chi sono queste persone. Io, nella mia ignoranza, mi sono fatto un'immagine stereotipata. Sono delle persone brutali, prepotenti, piene di tatuaggi, che riescono da sole a gestire una folla immensa. Laddove non riescono i responsabili delle istituzioni, basta un capo dei tifosi e la folla si placa. Guardi, per fortuna lo stadio non è questo. Io ci tengo anche a sottolineare, ascoltavo anche poco fa l'intervento dell'ascoltatrice, purtroppo si vive molto spesso anche di stereotipi, cioè sono passati oramai 6 anni da quella sciagurata notte di Catania, ricorderà, no, della morte di Filippo Raciti, e da allora moltissimo è cambiato. Risultati straordinari in termini di numero e di ferite, gli stati che si sono ridotti davvero a poche decine, sono cresciute in maniera esponenziale anche i DASPO, ricordiamo, i divieti di accedere alle manifestazioni sportive. Ma perché allora c'è una trattativa così infame fra istituzioni e capi delle tifoserie? Cioè, chi sono questi? E c'è anche stata una diminuzione notevole del personale anche delle forze dell'ordine impiegato. Quindi ecco, in questi 6 anni, ricordiamolo perché insomma l'informazione deve anche essere completa, si sono raggiunti risultati straordinari. È vero che ci sono ancora dei percorsi culturali da sviluppare e lì c'è ancora tanto da fare, non per nulla. Abbiamo presentato un mese fa, il prefetto Panico ha presentato i risultati della nuova task force voluta dal ministro Alfano, che va proprio in questa direzione. C'è una commissione ad hoc che ha l'obiettivo di dare un aggiornamento culturale, se vogliamo, allo stadio. Ci saranno integrazioni con tecnologie per facilitare anche la vendita dei biglietti allo stadio. Quindi ecco, c'è una dimensione nuova umana. Quello che è accaduto sabato, ripeto, cerchiamo di slegarlo anche dal... Scusi, ma con tutti questi sistemi, com'è Jenny la Carogna stava lì allo stadio? Ecco, appunto dico... Cioè, mi pare una persona abbastanza riconoscibile. Sì, ovviamente... Con una maglietta con scritto speciale libero, un assassino. Boh, non so. Sì, sì, no, è chiaro. Io infatti non è che sto assolutamente, è ovvio che la mia... No, domanda stupida la mia, però me lo domando. Sono, alla fine sono soltanto parole queste qua. Scusi, Ever. Abbiamo oggi una sorta di anti-eroe nazionale che è Jenny La Carogna, nel bene o nel male. E stava lì. Guardi, però... questo eroe Jenny La Carogna, io spero che non... lo sia forse per pochissimi delinquenti come lui, perché il termine è questo, insomma, non è un tifoso, un Jenny La Carogna non è uno che tiene per una squadra di calcio quella passione. Ma qual è allora il vantaggio dei vari Jenny La Carogna del nord, del sud e del centro di andare allo stadio? Cosa gliene viene a loro? È un loro gioco, è un divertimento, è una trasversale maniera di interpretare il calcio, si attizzano con la folla, hanno il senso del dominio delle persone o ci sono degli interessi ben precisi? Queste persone sono stipendiate da qualcuno, rispondono a interessi di qualcuno? Ma ovviamente, come dire, non compete a me questa risposta, perché io non posso che dirle no per quelle che possono essere le mie esperienze di sociologo. Non credo che nello stadio ci siano degli scambi economici per un ultra, insomma, avrebbe del surreale. Qui parliamo di gente che comunque non soltanto ha i DASPO in corso, ma ha dei precedenti penali molto seri. Parliamo molto spesso, se leggiamo le biografie, chiamiamoli così, di questi che hanno... No, su Repubblica è indicativo, sono tutti indicati, classificati, tutte le volte sono stati arrestati, ecco, cacciati. Confondiamo la parte con il tutto, cioè l'ultra non è soltanto questo. Io ci tengo a sottolineare, anche a dare un'immagine positiva dello stadio. Fermo un attimo, Adriano, una battuta, Adriano. Adriano, buongiorno. Pronto? Il suo buongiorno, punto di vista, c'è un minuto. Buongiorno. Prego? Il suo punto di vista, cosa deve dire? Il mio punto di vista è questo, velocissimo. Per quanto attiene ai fatti successi al di fuori dello stadio, quella lì è delinquenza comune. Dentro lo stadio? Dentro lo stadio? Utilizzano l'evento. Dentro lo stadio queste persone qui sono assolutamente, e lo sanno tutti, foraggiati, stipendiati, e gente che non lavora. Va bene, questo è il suo punto di vista, che penso è condiviso anche da molti ascoltatori. Ci ritorneremo se possiamo.